ci racconti una storia. I racconti di Laura Lorenza Sciolla. Benché Pasqua sia ormai alle spalle, vorrei parlare ancora di uova. O meglio, di un uovo, quello che, secondo la leggenda, sarebbe nascosto sotto il castello napoletano, noto appunto come Castel dell'Ovo. La volta scorsa abbiamo parlato del valore simbolico delle uova che rappresentano la vita e la resurrezione. Proprio in virtù di questa credenza, in alcune regioni un tempo era usato seppellire nelle fondamenta degli edifici un uovo, con la convinzione che questo avrebbe garantito durata e stabilità alla casa. A tale tradizione è legato il nome del famoso Castel dell'Ovo di Napoli. Un'antica leggenda vuole infatti che il poeta Virgilio, nel Medioevo noto non solo come poeta, ma soprattutto come mago, avesse nascosto un uovo nelle segrete del castello. Finché l'uovo fosse rimasto intatto, il castello non sarebbe crollato e la città di Napoli sarebbe stata preservata dalle sciagure. Il popolo era talmente convinto dei magici poteri dell'uovo nascosto che, quando nel XIV secolo ci furono degli smottamenti e dei crolli a causa del cedimento di un arco, la regina Giovanna I dovette giurare di fronte a tutto il popolo di aver sostituito l'uovo danneggiato con un altro intatto. Castel dell'Ovo, tuttavia, non è solo il luogo dell'uovo magico che terrebbe in piedi la città, è esso stesso una sorta di uovo, il nucleo originario da cui si sviluppò la città di Napoli. Fu infatti sull'isolotto di tufo su cui sorge, l'isolotto di Megaride, oggi legato alla terra da un istmo, che nel VII secolo approdarono i Greci. Essi vi fondarono Palepoli, il nucleo più antico della futura Napoli. Sempre in questo luogo, che evidentemente qualcosa di prodigioso c'era davvero, fu coltivato per la prima volta in Italia un albero che dà un frutto dolcissimo, il ciliegio. Il futuro Castel dell'Ovo, infatti, nel I secolo a.C., era la dimora di un romano ricchissimo che si distingueva per lo sfarzo dei suoi ricevimenti, Lucio Licinio Lucullo. I suoi banchetti erano talmente ricchi che, ancora oggi, un pranzo di grandi prelibatezze è detto luculiano. Al ritorno dalle guerre in Oriente, insieme con il bottino in oro e schiavi, Lucullo portò una pianta che veniva coltivata a Cerasunte, una città che si trova nell'attuale Turchia. Da Cerasunte deriva il nome della ciliegia in diverse lingue e dialetti, la cerasa. La stessa parola ciliegia, peraltro, deriva da cerasa attraverso varie mutazioni fonetiche. A dire il vero, le ciliegie erano già conosciute nella Gallia Cisalpina, fra i Celti del nord Italia, ma si trattava di frutti aspri e legnosi, praticamente immangiabili. Possiamo ringraziare Lucullo se oggi gustiamo ciliegie dal sapore irresistibile. Guarda caso, la forma della ciliegia è rotondeggiante come quella dell'uovo, il che ci riporta a Castel dell'Ovo, alle magie di Virgilio e all'ovale dell'uovo, potente simbolo in tutte le culture. Speriamo che averlo evocato porti fortuna anche a noi. E con questo augurio vi saluto. A risentirci. Avete ascoltato? Prof, ci racconti una storia. Un'idea di Adelaide Spallino. Programma curato e condotto da Laura Lorenza Sciolla. Regia di Dario Albertini. Prof, ci racconti una storia è una produzione Radio Libriamoci Web per Associazione Culturale Clarite, licenza Creative Commons 2.5. I racconti di Laura Lorenza Sciolla vi danno appuntamento alla prossima settimana.